Questa manifestazione nasce dentro il percorso nazionale che si è dato contro il DDL sicurezza, quindi è una mobilitazione in diverse città italiane e sarà una tappa verso una mobilitazione che punta a impedire che questo DDL sicurezza passi al Senato e poi eventualmente alla Camera. Quindi è una mobilitazione molto importante perché deve crescere, perché la forza deve aumentare per poter pensare di bloccare questo DDL. Sarà una manifestazione particolare proprio perché invitate le persone a portare accendini, torce, fiaccole per proprio creare luce. Sì, è una mobilitazione accessibile a tutti, invitiamo anche a rompere il clima di paura che si sta creando e appunto è una tappa di una mobilitazione, quindi invitiamo veramente tanti e tante a scendere perché sarà accessibile in contesto dove è importante che anche tanti soggetti diversi inizino a confrontarsi su come costruire mobilitazioni efficaci da questo punto di vista, quindi insomma invitiamo tutti ad esserci con luci dei telefoni, con ognuno quello che ha insomma. Da tempo va avanti una mobilitazione contro il DDL sicurezza, quali sono gli aspetti peggiori che vi portano a opporvi? Che in questi giorni stiamo vedendo ulteriori proposte, per esempio sullo scudo penale e le zone rosse, insomma sono dentro DDL misure simboliche ma poi ci sono anche misure effettive, quindi da un certo punto di vista è un manifesto ideologico di questo governo. Sicuramente sono alcune misure come quelle che impediscono i blocchi stradali, che minano fortemente non solo le lotte climatiche ma anche il diritto di sciopero, quindi elementi basilari della conquista dei diritti in questo paese, non solo. Sono misure come quella che punisce chi lotta per il diritto alla casa, fino ad arrivare a elementi punitivi pesanti, addirittura per chi sta in carcere e fa proteste di tipo passivo. Ed è per questo che è da un lato il manifesto ideologico e dall'altro lato non è semplicemente un'azione, una misura repressiva come tante si sono susseguite in questi anni, ma dal nostro punto di vista rappresenta un cambiamento di scala e quindi un primo passo verso nuove forme di rapporto tra democrazia e conflitto. Il conflitto per questo governo, ma evidentemente non solo a livello globale, non è un elemento utile allo sviluppo di maggiore democrazia e quindi questo è un altro motivo molto importante per esserci contro questo DDL sicurezza e da lì insomma ritrovarsi in tante per affrontare i problemi del nostro tempo. Proprio su questo volevo chiederti, c'è un tentativo di una svolta autoritaria nel nostro paese? Io direi di sì, non ci piace guardare semplicemente al passato, però sì, questo è un passaggio di una svolta autoritaria che però si nutre anche di elementi della democrazia liberale, perché non tutto va cestinato in qualche modo del passato. Iniziamo a vedere che anche pezzi di capitalismo hanno bisogno di meno democrazia per poter fare profitto, per poter andare oltre quello che abbiamo visto negli ultimi anni, quindi una svolta autoritaria che però va letta dentro un contesto nuovo sicuramente. Ore 19 davanti alla prefettura, palazzo del governo, per poi muoverci verso Piazza Maggiore con ognuno con torce, luci, telefoni alla mano.